abbastanza pieno. Se goder non si può, si spera almeno. E chi vive sperando per sua felicità muore cantando. Presto, presto, guardato via, all'uso può servirti. Non posso corno di tutta prima, volontario schiavitù, volontario schiavitù, volontario schiavitù. Poiché del viril sesso abbiamo noi sottomesso il fiero orgoglio, tener l'abbiamo incatenato il soglio. Ma quai credete voi, mie fedeli compagni e consigliere, fiam migliori progetti, gli uomini per tenere a noi soggetti. Questo nemico sesso, di natura superbo e orgoglioso, scuote e lacera il fren quando è pietoso. Col rigore, col disprezzo, soglio le scaltre donne tenere gli uomini avvinti e incatenati. Se sono innamorati, tutto soglion soffrire. E quanto sono più sprezzanti le donne, più crudeli, essi son più pazienti e più fedeli. E veh, ma crudeltà consuma amore. Il consiglio migliore credo sia lusingarli, fingere ogni or d'amarli, accenderli ben bene a poco, e poi del loro amor prendersi il gioco. Né troppo crude né pietose troppo essere ci conviene, poiché il disprezzo eccita la pietà soverchi usata, la fierezza è temuta e non amata. Regoli la prudenza, il femminile impero, or clemente, or severo, il nostro cor si mostri, ed il sesso virile a noi si prostri. Ognun pensi a suo senno, io vo costoro aspramente trattar, voglio vederli piangere e sospirare, fremere e delirare. E vuò che dopo un lungo crudo servire e amaro, un leggero piacere mi paghi in caro. Aurora, non vorrai che per troppo voler s'avesse a perdere l'acquistato finor dominio nostro. Donne al fin siamo, e a noi forza non die natura che nei vezzi, nei sguardi e le parole. Spade e lance trattar, l'oriche e scudi non è cosa da noi. Se l'uom si scuote, val più un braccio di lui e 10 destre di femmine vezzose e tenerelle, hanno il loro piacer in esser belle. Tullia, voi per di vero saggiamente parlate, e a voi la sorte di sesso femminile, ma il senno ed il saper più ne virile. Anzi, madre natura, alla breve statura del vostro corpo graziosetto e bello, ha supplito col darvi assai cervello. Indi la madre vostra vi diede il nome di Tullia con ragione, voi che sembrate un Tullio Cicerone. Raduniamo il consiglio, facciamo che stabilite siano leggi migliori, onde si renda impossibile all'uomo scuotere il gioco, che se l'uomo ritorna ad esser fiero, farà strage crudel del nostro impero. Thank you. Calzetta. Lasciatemi lavorare, venite qui. Bene, signora, sì. Ubbidirete sempre i cenni miei. Io faccio quello che comanda lei. Oh, il mio graziosino, siete tanto bellino. Mi fate vergogna. Vi voglio bene e vedrete del mio amore il frutto. Queste parole mi consolan tutto. Baciatemi la mano, signora, sì. Perché voi mi piacete, vi fa queste finezze. Oh, benedette sia le mie bellezze. Ma vuo che siate attento a servirmi qualora io vi comando. La mattina per tempo mi recarete il cioccolato al letto. Mi scalderete i panni, mi dovrete allestir la tavoletta. Sarete in anticamera aspettando per entrare il comando. E se verranno visite a trovarmi, voi dovrete avvisarmi. E come fanno i buoni servitori, voi dovrete aspettare e star di fuori. Di fuori? Vi si intende? E dentro? Signor, no. Aspettare voi dovrete. Aspetterò. Se farete così, vi vorrò bene. Sì, cara, farò tutto. Farò la cameriera, farò la cuciniera, farò tutte le cose più triviali. Laverò le scodelle e gli urinali. In cose tanto abiette, impiegarvi non vuo. Voi siete al fine, il mio caro, il mio bello, il mio amor tenerello. Il mio fedele amato graziosino, tanto caro al mio cuore, tanto bellino.

gli uccelli cantano, quando gli uccelli cantano, amore li fa, cantare. E quando i pesci guizzano, e quando i pesci guizzano, amore li fa guizzare. La pecora, la tortora, la passera, la lorona, amor fa giubilar. La pecora, la tortora, amor fa giubilar. La lorona, la passera, amor fa giubilar, amor fa giubilar, amor fa giubilar. Quando gli uccelli cantano, quando gli uccelli cantano, amor li fa cantare. E quando i pesci guizzano, amor li fa guizzare. E quando i pesci guizzano, amor li fa guizzare. La pecora, la tortora, la passera, la quando cantano i pesci, quando guizzano, la tortora, la lodola, la pecora, la tortora, amor fa giubilar, amor fa giubilar. Questo cappel che con la polvere intriso fa risaltare mirabilmente il viso. Al rigirar di queste mie vezzose pupille spargo fiamme e faville, e questa bocca che sembra agli occhi miei graziosa e bella fa tutte innamorar quando fa bella. Queste donne son tutte invaghite di me, schiavo son io di queste belle, è vero, ma sopra il loro cuore tutto l'impero. Ecco la vaga Cinzia, presto, presto, il nastro, la parrucca, i guanti, tutto, tutto assettar conviene, e gli occhi, e il labbro con le dolci parole, e i dolci sguardi, si prepari a vibrar, saette e dardi. Mia sovrana, mio lume, a voi m'inchino. E me, che fate qui? Qual farfalletta d'intorno al vostro lume vengo, mia bella, a incenerir le piume. Paremi con più ragione vi potreste chiamare un farfallone. Quella vezzosa bocca non pronuncia che grazie e bizzarrie. La vostra non sa dire che sciocchezzie. E lasciate ch'io possa con l'odoroso fiato dei miei caldi sospiri quelle belle incensar guance adorate. Andate via di qua, non mi seccate. Ah, se sdegnato bella i fumi del mio cor porterà altrove il mio guardo, il mio fiere, il mio affetto sincero e la mia fede. Voilà, così si parla. Vuoi staccarvi da me? Vuoi cui d'altra donna servo schiavo ed amante, temerario, arrogante, voi dovete soffrir le mie catene. Qual mercere avrò? Tormenti e pene. Giove, Plutone, Nettuno, dei tremendi e potenti, voi udite gli accenti d'una donna spietata, spezzate voi questa catena ingrata. Sì, sì, Nettuno m'inspira, Giove mi dà valore, Plutone mi dà furore, perfida tirannia, umilmente m'inchino e vado via. Fermatemi, ed avrete tanto cuore di lasciarmi. Voi diceste di amarmi, di servirmi fedele con tutto il cuore, ed ora mi lasciate, oh, traditore. Ma se voi mi sprezzate, se voi mi dileggiate, come se io fossi un omzotico e vile, e studio in van di comparir gentile. Senza studiare voi siete abbastanza gentile, grazioso e bello. Quell'occhio briconcello, quel vezzoso bocchino, quel bel visetto, m'hanno fatta una piaga in mezzo al petto. Dunque, cara, mi amate? Sì, vi adoro. Idol mio, mio tesoro, lingua non ho bastante per render grazie al vostro dolce amore. Concedete il favore che rispettosamente e umilissimamente io vi possa baciare la bella mano. Oh, signor, no! Voi lo sperate in vano. Ma perché mai? Perché? Queste grazie da me non si hanno sì facilmente. Io morirò. Non me ne importa niente. Dunque, se non vi importa, d'altra bella sarò. Voi siete mio. Che ne volete far? Quel che voglio. Ah, quel dolce rigor più m'incatena. Soffrirò la mia pena, morirò, schiatterò se lo bramate. Basta, bell'idol mio, che voi mi amate. Ah, morirà. In quel volto siede un lume, in quegli occhi ecco il lume che mi fa sperare amor. E frattanto vive in pianto, ed un uomo si ben fatto contraffatto morirà, morirà, morirà, morirà, morirà. Se adorata esser volete, ecco qui adorerò. Se al mio cuore non credete, idol mio ve lo mostrerò. Sì, sì, ve lo mostrerò. Ma crudele, odio non siate, ed abbiate almeno pietà. E abbiate almeno pietà, almeno. Superbite più diventano, e gli amanti per gioco allora tormentano. Cinzia, che mai faceste al povero Giacinto? Egli sospira, egli smania e delira. Ah, se così farete, l'impero di quel cor voi perderete. Anzi, più facilmente lo perderei con la pietà dei vezzi. Gli uomini sono avvezzi per la soverchia nostra facilità del sesso a saziarsi di tutto e cambiar spesso. Con noi così, con noi così. Mercè, pa nostro ingrato senso, far per noi si dovria con voi gli stesso. Ma nostra autorità, nostro rigore, tempererà dolce amore, ed il vostro servir che non sia grave, sarà grato per noi, per voi suave. era gentile. Acuteone. Piacemi il paragone, poiché son vostro amante e vostro servo. Ma ohimè, che Ateone è divenuto un cervo. Io crudele non so qual fu la dea. Né io sarei modesto qual fu il pastor dolente. Siete bello e prudente. E tutta vostra bontà. Giacinto, in verità, voi mi piacete assai. Arder tutto mi sento a vostri lai. Un'aurora, Giacinto. Ma voi di Cinzia siete. Più di lei mi piacete. Parmi che il vostro bello mi renda assai più snello. Miratemi in volto, a poco, come per vostro amore son tutto un fuoco. Acqua, acqua, padrone, acqua ci vuole il fuoco d'ammorzare. Oh, Cinzia mia, ardo d'amor per voi. Ingannarmi non puoi, ho le parole tue, tutte ascoltate. Mia vita. E saranno bastonate. Bastonata un par mio. Aurora, a voi l'onor mio raccomando. Siete schiavo di Cinzia, io non comando. E voi, gentil signora, vi dilettate di rapire altrui il vassallo e l'amante. Faccio quello ancor io che fanno tante. Ma con me non farete. Allor che sappia di darvi gelosia, voi dovrete tremar dell'arte mia. Distrutto in questa guisa nostro imperio sarà. Oh, come importa, pria che cedere al vostro stato superbo e altero, vada tutto sossopra il nostro impero. Giacinto, andiamo. Vengo. Crudel, voi dunque mi lasciate così? Ma se conviene. Si viene o non si viene? Eccomi lesto. Morirò se partite. Eccomi. Io vi faccio provare il mio pudor. Ingrato, crudelaccio, voi mi strappate il cor. Mi trovo nell'impaccio, fra amore e fra timor. Voi siete il servo mio. È vero, sì signora. Amante vi son io. Col mio colpato voglio essere obbedita ed io obbedirò. Non volete essere tradita. Io non vi tradirò. E che risolvete che mia pelle se volete io mi dividerò. Con te che voi sarete, sarete, non dubita che no. Di qui non partirete. Adesso, adesso, adesso tornerò. Con te che voi sarete, sarete, non dubita che no. Questo è l'imbroglio, l'imbroglio, l'imbroglio. No, no, non più non voglio far misera. Perde cervello, chi mi rimira, ogni un sospira per mia beltà. Chi mi rimira, perde cervello, ogni un sospira per mia beltà, per mia beltà, per mia beltà. Sì, sì. Ecco, ritorno. Ecco, ecco, ritorno. Stelle, pietà, pietà. Questo è il mio cuore per voi, piaga. Questo è un bastone per voi, serbato. Bastonate, ma comperò. Sono imbrogliato. dato. Una ti do, l'altra bastone, quella tua, questa l'amore. Cosa farò, cosa farò? Vi risolvete. Risolverò. Via, via, risolvete. Risolverò. La vostra tirannia piacere non vi dà, la vostra cortesia contento più mi fa. Venite dunque meco, con voi mi porterò. Riposo se parte seco, io ti bastonerò. A voi mi bastonate, darei di ampesia. Indegno, scellerato, io vi vendicherò. Tremate, strepitate, io tanto poderò. Gridate, strepitate, io tanto poderò. Gridate, strepitate,